dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza. Serviranno tempestività e lungimiranza per offrire sostegno e risposte a chi è stato colpito più duramente. Adesso dipende anche da noi, dalla nostra intelligenza, dalla nostra coesione. Abbiamo altre volte superato periodi difficili e drammatici. Vi riusciremo certamente, insieme, anche questa volta. Sì, Ilka, lo Stato vuole i fari. Quelli gentili dormi fuori. Ci sono tante case chiuse. Loro mi apre qualche casa, portare i gentili. Io resto a casa. Voci di chi non ha casa. Cittadini e cittadine senza dimora raccontano come hanno vissuto il lockdown a Trento. Capitolo 5. Un periodo anticonforme. Nessuno lo sa come si fa con quella malattia, una malattia pericolosa. Allora per me non paura per l'enti. Quanto vuoi vivi? 100 anni? Non si può. 150? Non si può. Non lo so, perché ogni persona c'è il fine. Con quella malattia così. Però stai attento, però. Quanto arriva il fine, il fine. È questa qua. La fine di la vita. Io che ripeto, io ce l'ho sognare di Dio. Un mese fa, di Natale, Christmas, io sognare, io ce l'ho grande cattolico, ce l'ho sognare, Dio parola, greghi non piangi, come Papa Giovanni Caravoitella, vai più avanti, coronavirus sparita, adesso tecnica, medicina, grande, forte, forte, non piangi, non triste. Mai indietro, no triste, no piangi. Oggi una buona giornata, domani altra buona giornata. Come aria, sinistra, destra, tutti i giorni cambio. Tutti forte. Io, ok, grazie Dio, grazie. Speriamo da essere una lezione, perché speriamo nel futuro essere ben preparati, anche se non lo so, non mi ricordo quando è che è stato questo, mi sa un secolo, mezzo secolo fa è successo, però le gente non lo sanno cos'è, non lo sanno, le gente non lo sanno soffrire, capisci? E fino a un certo punto gli dà ragione, quando uno, perché ognuno di noi vuole proteggere se stesso. Ad esempio, chi è che non ama la vita? Io alle volte condivido, alle volte no. Soprattutto nella nuova generazione bisogna essere insegnati. E questa cosa qua viene conservata per riflettere nel futuro, da vedere magari. Speriamo che non capita più, almeno quando ti trovi la prossima volta in questa situazione qua sei ben preparato. È aumentato il rato di povertà, diciamo, la povertà di comunicazione, perché non defini più quella che dice l'altro, la povertà di socializzare e la povertà di ignoranza. L'ignoranza è aumentata perché ognuno si vuole difendersi dall'altro. Questa è un'ignoranza verso l'altro. Sarà dura, ma passiamo. Avendo sempre gli occhi aperti, però. E sempre guardare al prossimo, non vedersi sempre se stesso. Questo è. Mi auguro che cambia qualcosa in questo senso. Siamo diventati un po' chiusi tutti. meglio aprirsi. Aprirsi, anche dirlo qualche cazzata ogni tanto, ma aprirsi. Polizia locale, carabinieri, c'è le mascherine, bravi, bravi. Regolamento di gruppo, persone, festa, qualcosa, mascherine, sì, regolamento. Mascherina solo vicino persone, tante persone, gruppo, sì, mascherina, bravo, capito. Autobus, pullman, il treno, mascherina, regolamento, piace. Ale di solo io, di parco, banchina, occupato, niente mascherina, non mi interessante, non mi piace, mi piace aria naturale. Fumare una sigaretta, Marlboro Light, elettronica, tabacco. Dammi relax come stress nervoso. Come medicina, sì. Madonna, festa per me. Mascherina giù. Io ce l'ho aria bellissima, aria. A coronavirus per me guardare. Ciao Gregorio, tutto bene? Io ciao ciao, bye bye. Libertà, sì. Durante il Covid la cosa positiva è che comunque sono riuscito a trovare lavoro, quindi a poter migliorare la mia situazione. Sono un rider o corriere, io preferisco la parola corriere più che rider. Posso portare farmaci, posso andare a fare la spesa, posso portare un po' di tutto, insomma. Anche se generalmente lavoro tanto per i ristoranti McDonald's, Burger King, e vado in giro per tutta Trento, le frazioni. Spero veramente che si chiamino per il dormitorio, no? Perché in giro è davvero comunque una casa, non mega, ma proprio una stanza, c'è una camera, un bagno, una cucina, proprio il minimo indispensabile. E vivere un po' più senza troppi problemi, ecco, e di riuscire a sistemarli. Per il resto poi mi accontento di poco. Non solo l'Italia, il mondo intero sta vivendo un periodo così, bisognerebbe fare un po' di più, perché si tratta della salute delle persone. Non è lasciando le persone per la strada che penseranno che la cosa si risolverà da oggi all'indomani. È impossibile. Dal momento in cui ci sono tante strutture vuote, ma allora tu preferisci che le strutture rimangano vuote mentre che persone stanno per la strada? Ma è ingiusto, non va bene. C'è un po' di umanità anche in questo periodo, ci dovrebbe essere, perché è un periodo difficile per tutti. Non è un periodo, diciamo, conforme, capito? È un periodo anticonforme, quindi bisogna essere anticonforme anche. È per il bene di tutti. Io dico alle persone che magari in questo momento sono in difficoltà di non perdere la speranza, perché la speranza è l'ultima a morire. Quindi c'è, finché c'è la vita c'è la speranza. Ci sono persone che quando una persona pensa di avere la casa e di non avere, diciamo, un paio di scarpe, deve sapere che c'è peggio. E quando una persona pensa di non aver mangiato tutta la giornata, deve sapere che c'è peggio. Quindi c'è sempre di peggio, quindi cerchiamo di affrontare, guardare i covi negli occhi e sconfiggerlo, ma con intelligenza, insomma. È solo con intelligenza che questo virus potrà essere sconfitto. Trovarsi senza un tetto potrebbe capitare ad ognuno di noi. L'accesso ad un alloggio decoroso è uno dei diritti umani fondamentali. Facciamo di tutto perché questo venga rispettato.